Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia, anzi come la California. Metà sono una donna forte, decisa come il vino buono, metà una Venere di Milo che prova ad abbracciare un uomo. E anche se qui c'è troppa gente, io me ne fotto degli altri e te lo dico ugualmente. Resta qui ancora un minuto, se inverno è soltanto l'estate che non ti ha conosciuto e non sa come mi riduci. Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro, galleggio in una vasca piena di risentimento e tu sei il tostapane che ci cade dentro. Grattugio le tue lacrime, ci salerò la pasta, ti mangio la malinconia, così magari poi ti passa. Mentre ondeggi come fa una foglia, anzi come la California. Resta qui ancora un minuto, se inverno è soltanto l'estate che non ti ha conosciuto. Bruciami piano come il basilico al sole sopra un balcone italiano.